Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Arrivati alla fine dell'anno scolastico, mi sembra giusto parlare dell'avvenimento che più sconvolge e affligge i ragazzi che si preparano a lasciare una volta per sempre la scuola. Sì, parlo proprio degli esami di maturità. Vogliamo oggi mostrarvi 10 cose da fare e non fare durante il colloquio orale. La prima cosa da evitare è di fare scena muta davanti a qualsiasi domanda vi venga posta. La seconda cosa da evitare è farsi prendere dal panico. Posso andare, ma non mi sento male. La prego. Non è che sia un tema originale, ma oggi non vedo altri temi che scalpitano l'attualità che quello della maturità. Già è partito il tweet del premier Renzi: Calvino, resistenza, Malala, Mediterraneo. Sono curioso di leggere i commenti dei ragazzi quando usciranno dalla maturità 2015. Beh, a me quello che diranno i ragazzi quando usciranno interessa poco, interessa molto di più sapere se è vero poi che questa traccia indelebile di questo passaggio epocale nell'esistenza degli italiani civilizzati degli ultimi 60-70 anni lasci un così profondo tracciato onirico per cui molti ancora si sognano, svegliandosi tutti sudati, ansiosi, facendosi la pipì addosso, di svolgere l'esame di maturità perché quello che hanno fatto non era valido. Sì, perché mi è stato confermato da più persone questa mattina, l'ho visto anche cercando la richiesta in internet, ma anche il professor Fabrizio Intonti, il professor Rocchetti hanno come loro inconfessabile segreto che spesso è capitato loro di sognare che gli esami di maturità che hanno dato non valevano più, erano stati inficiati, invalidati, insomma loro dovevano ripassare per la maturità. La cosa terrificante in questo sogno è che gli altri amici invece hanno tutti, per gli altri è andata tutto bene, quindi si ritrova nuovamente sui banchi di scuola, nuovamente a dover ridare gli esami. Vi è capitato? Perché poi facendo la ricerca in rete vedo che è un sogno ricorrente. La maturità infinita, gli esami che non finiscono mai. Ma qual è la ragione profonda? Non voglio chiamare esperti in interpretazione dei sogni. Immagino per molti sarà stato un passaggio traumatico. A me, per esempio, non è mai successo di sognare la maturità non è andata, ma è successo di sognare la laurea che non funziona, che a un certo punto mi arriva una lettera a casa che il mio certificato di laurea non è valido, forse perché ho la coscienza sporca, perché all'università ho studiato pochissimo, perché ho messo a punto millanta stratagemmi per passare agli esami, turlupinare i professori, estorcere le prove scritte da compagni di università generose e simpatiche. Qualcosa avevo fatto. Io mi sogno che devo ancora ridare gli esami di laurea. Molti sognano la maturità. Qual è il trauma profondo che sta alla base di questo passaggio che oramai è abbastanza inutile, secondo me, dell'esame di maturità, caricato così tanti significati, quasi fosse un momento liturgico nell'anno degli italiani, il giorno in cui vengono comunicate le prove dell'esame di maturità. Poi vedrete, domani sui quotidiani ci saranno 4-5 metrapansè che avranno svolto il tema come loro l'avrebbero svolto, ci saranno le percentuali di scelte, ci saranno questa sera i servizi davanti ai licei in cui vengono intervistati i garruli studenti. Cosa hai scelto? Io ho scelto Calvino. Sì, ho scelto Calvino perché in realtà la sua poetica la trovo molto affine a quelli che sono gli obiettivi della mia vita. Ho scelto Malala perché Malala per me è sempre stato un faro che illumina la notte. Ho scelto la resistenza perché è un valore che bisogna naturalmente riportare all'attualità, troppo compromesso da quelle che sono delle spinte revisionistiche rispetto ai valori fondamentali che hanno fatto la storia del nostro paese. Ecco, già fatto quello che vedrete questa sera ai telegiornali. 800 24 00 24, permane per voi l'incubo dell'esame di maturità, tanto che ve lo risognate continuamente nel corso della vostra mesta esistenza di uomini adulti? Allora, per questa terza prova, la materia che ti fa più paura? Storia, assolutamente, la materia più oscura di tutte. Sicuramente filosofia, perché in 10 righe riassumere dei ragionamenti filosofici è molto difficile. Hegel, Marx, roba impicciata, ecco. Astronomia. Come mai? Perché non l'ho studiata. Diciamo scienze perché abbiamo il professore esterno e quello che abbiamo avuto durante l'anno spiegava scienze secondo lui, cioè nel senso sua versione non molto corrispettiva a quella del libro. La tesina è pronta? No, perché io faccio il 1 luglio, quindi ancora un po' di tempo. C'è questa storia della tesina, uno si svena per fare la tesina e poi nemmeno la leggono, perché le tesine normalmente sono su temi e discipline che esulano da quello che è la rigida, il rigido attenersi ai programmi scolastici. I professori non vogliono fare la fatica di andare a mettere le mani e il naso in qualcosa che non conoscono, perché mi ricordo che l'anno scorso mio figlio fece la tesina sui manga giapponesi, sui rapporti con la letteratura e le anime, ma nessuno volle nemmeno aprirla perché era roba di fumetti, roba che i professori nemmeno toccano. Roberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ah, questo incubo lei. Sì, sì, io da quando ho fatto la maturità, più o meno nel 98, e quindi mi hanno bocciato, perché poi è quello il problema. Ah, lei l'hanno segata la maturità? Sì, sì. Vabbè, io appartengo a quell'1% che viene fuori. Cioè, non succede mai, come mai? Qual è stato il motivo? Ho fatto un anno che era andato male. Ah, male, avrà fatto anche qualcosa? No, mi hanno detto, prova ad andare alla maturità, prova a farcela, poi alla fine, sì, non ce l'ho fatta la maturità. Ma aveva una media molto bassa, qual era il problema? Sì, non andavo granché bene, a parte qualche materia, poi ho fatto un esame disastroso, quindi... Ma non hai nemmeno studiato per l'esame? No, avevo studiato... No, perché passano cani e porci, veramente, è una cosa... Infatti, quell'anno lì fumo segati, diciamo, per virgolette, in 3 in 4 nella mia classe, quindi non andavamo granché bene, quindi... E questo l'ha segnata così profondamente, dolorosamente? Sì, sì, io... che se... Ma scusa, che cosa sogna lei? Sogna che le va male la maturità? Sogno che praticamente mi avvicino... Ma non per forza d'estate, capita anche in inverno, che praticamente mi avvicino alla data dell'esame e non ho studiato niente. Quindi arrivo lì che non so niente, manca un giorno alla maturità e anche studiando così non ce la faccio. Cioè, a montagne di libri, di appunti, di quaderni, tempo passa. Il tempo passa, mi avvicino alla data, ma so benissimo che non ho studiato e non studio. Cioè. E si sveglia tutto sudato? No, tutto sudato no, però diciamo che la mattina dopo mi ricordo, altri sogni non me li ricordo male, cioè non me lo ricordo. Quindi lei mi conferma che segna profondamente la maturità mancata, anche la maturità è andata bene, è qualcosa che è veramente un passaggio iniziatico, un passaggio da una fase felice di giovinezza, di spensieratezza, alle prime vere e importanti prese di responsabilità. Roberto, buongiorno. Roberto? Matteo, scusate, Matteo. Sì, eccomi, buongiorno. Allora, anche lei ha questo sogno? Sì, a me capita per la laurea... Spenga la radio però, Matteo, spenga la radio. Sì, l'ho spenta. A me capita per la laurea. Sostanzialmente mi viene notificato che mi mancano alcuni esami e la mia laurea non è valida perché mancano alcuni esami. Ecco, esattamente fare. Il mio sogno, lei lo ha descritto in maniera più esatta, io avevo un po' di confusione. A me sembra che arriva come una circolare a caso, qualcuno me lo dice guarda che questi esami non li hai dati. Dico, come? L'ho dati tutti, c'avevo il libretto in mano, mancano degli esami. E è terribile perché a un certo punto tutta la vita è messa in forza perché non sei laureato, quindi tutti i lavori che hai fatto li hai fatti illegalmente, quindi devi ricominciare da capo. È terribile, vero? È terribile, praticamente tornare indietro di 20 anni. Ecco, secondo lei qual è la differenza fra noi e quelli che sognano la maturità? Per noi è stato più difficile laurearsi rispetto agli altri? Ma forse perché diciamo c'è stata più intensità nella seconda parte, quindi nella vita accademica. Ecco, per me la maturità non me la ricordo per niente, è una cosa normale, un gioco. La laurea intente l'ho sofferta, sì, forse l'ho sofferta. Sì, poi il ritmo degli esami che veniva scandito. Quali sono gli esami che le mancano? Ha una, diciamo, un ricordo su questo è generico? Ma è sicuramente matematica generale. Che era poi tosto. Gli altri due non me li ricordo, però diciamo che ne mancavano 2 o 3, ecco. Che hanno degli ostacoli. Lei in cosa si è laureato? In economia, all'Università Cattolica di Milano. Quindi hanno gli esami tosti di economia, quelli sulla matematica, che erano quelli più difficili. Grazie Matteo. Il poeta del nostro secolo è Luigi D'Alessio. L'avevi detto? detto Gigi. Luigi Alessio nasce a Napoli il 24 febbraio 1967 da una famiglia di umili origini. Il poeta sempre... già basta, da... Basta. Ora la parte più consistente dell'esame, l'argomento YouPorn. Mi rendo conto che è un mare magnum che contiene tanto, però insomma so che lei ce la può fare. No, perché io avevo preparato le crociate. Lo so, ma ci siamo stati 3 mesi su YouPorn, eh? È stato il centro del programma di quest'anno, quindi non può non saperlo. E lei lo sa. Allora, YouPorn nasce in California nell'agosto del 2006. E ci voleva tanto. Si divide in... In cataloghi e categorie. Categorie. Vuole elencarne cortesemente qualcuno? Allora, troviamo amatoriale, sì. Mature... Beh. Big Tease, sì, doppia, dopo un altro classico, doppia, doppia P, doppia presa, no, doppia P, vedi questa immagine, penetrazione, doppia penetrazione e squirting. Sì. Ci parli un po' dello squirting. Allora, lo squirting è una... Questo è un esame di maturità surreale, naturalmente, con Fabio De Luigi, che potrebbe accadere se ci fossero delle materie più attinenti a quelle che sono le frequentazioni degli studenti rispetto a quelle classiche. YouPorn è una materia che probabilmente frequentano di più, e su questo il professore del mondo delle meraviglie fa le sue domande. Maurizio. Sì, sono buongiorno. Io sono Maurizio da Terni. Allora, volevo dica. Raccontare il suo sogno. La mia esame di Stato, io me lo sono portato appresso per 10 anni. Ne porta ancora i segni nella sua psiche, sento fortemente sì. Provata, balbetta solo a pensarci. Tenga presente che ho l'esame di Stato fatto nel 66, quindi sono passati quasi 50 anni. Adesso diciamo che da una decina d'anni non faccio più quel sogno incubo, perché è stato sostituito da problemi di lavoro, andavo a delle riunioni a cui non arrivavo in tempo. Però mi ha segnato, perché tra l'altro poi fui rimandato in una materia. Poi era la vecchia maturità, che era ancora più tosta, era tostissima. Era una maturità fatta con gli esami, 10 materie, con gli ultimi 3 anni, con riferimento agli ultimi 3 anni, il liceo classico. Io ero amante delle lettere classiche, mi rimandarono in greco, feci un bordello nella traduzione. Nello scritto. Sì, perché allora si faceva tutto scritti e tutti orali, non è che c'era greco o latino, tutti e due si faceva. No, c'era latino dall'italiano, latino dal latino, poi tutto c'era greco, c'era la possibilità, io chiesi, mi ricordo che il commissario mi fece un sorriso di sufficienza, dico, ma potrei fare la traduzione direttamente dal greco al latino? Sì. Perché mi sentivo effettivamente preparato, poi la delusione perché fui rimandato in greco, per me fu una qualche cosa che me lo sono portato appresso, ma io mi ricordo sempre questo impasse che ebbi davanti alla traduzione di greco, non riuscivo ad andare avanti io, quindi una questione me la sono portata appresso fino a una decina di anni fa. Effettivamente mi svegliavo con l'incubo, domani devo andare a dare gli esami di Stato e non vorrei che capitasse quello che era capitato. Ecco, questo è il vero lato profondo, lacerante, doloroso di questo momento che la maturità è inutile. Fate i sorrisini, richiamate i divi della canzone, della politica, del giornalismo, dicono anche noi fu bello, studiammo tanto, tutta la notte prima degli esami, questa melenza poetica. No, gli esami di maturità è qualcosa che ci segna, è un trauma che per tutta la nostra vita ci porteremo dietro. Comunque sia andata. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Cercherò di darvi un consiglio su come copiare in qualsiasi compito in classe oppure agli esami di Stato. Tengo a precisare che non l'ho mai fatto, eh? Ma passiamo subito a vedere cosa ci serve. La prima cosa base, nonché il fondamento del nostro metodo di copiatura, sarà un normalissimo dizionario di qualsiasi materia voi vogliate. Il secondo oggetto che andremo a utilizzare sarà un bisturi. Ora non mi chiedete perché io ho un bisturi in mano, però potete usare benissimo un taglierino. E per ultima, ma non meno importante, una stampante per comp- Prendete il vostro taglierino e la andate a ritagliare sul bordo. Molto attentamente, il più preciso ovviamente possibile, tagliate da entrambi i lati in modo che il taglio sia netto e perfetto, e la pagina verrà via. Cosa ne consigli, come fregare la maturità? Fanno parte comunque dell'alimento che suscita nel nostro profondo i sogni, gli incubi della maturità non superata, della maturità da rifare, degli esami sbagliati. Mi stanno arrivando un'infinità di versioni di questo sogno terrificante, un esame che era sbagliato, una prova che era sbagliato, la maturità che non è stata data, ti chiamano a casa, i colleghi che ti dicono loro l'hanno data, tu devi ancora darli. Cioè, oltre a sognare la maturità, non so come ho fatto a cavarmela con un 38. Credo di sognare di non essere stato congedato, tornando a lavare migliaia di piatti nella mensa militare. Sì, un altro sogno ricorrente, non l'ho citato perché ormai fa parte di generazioni che hanno già un piede della fossa, tipo la mia, è sognare che non hai fatto il servizio militare, dover ricominciare la naia da capo, che è un vero incubo per chi l'ha fatta. Ma siccome il 90% delle persone che mi ascoltano non l'hanno fatta, torniamo al sogno della maturità. Federico, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Il suo problema. Io chiamavo mio ma, io diciamo che l'esame di maturità non mi faceva paura, ma la cosa era abbastanza inquietante perché io ho avuto paura di quello delle medie, che mi sogno tuttora, oppure spesso sogno l'esamino di terza media. Ah, un esamino. Sì, che mi è andato benissimo tra l'altro, però alle medie mi veniva tutto facile perché non dovevo studiare, bastava che ascoltassi. E quindi probabilmente avevo paura che mi interrogassero su delle cose. Quindi lei sogna di non passare l'esame di terza media? Ma io più che altro sogno di non essere pronto per l'interrogazione. Però la cosa che in realtà mi ha segnato dell'esame di maturità è che io, dopo, quando l'ho passato, la sera stessa, appena andato a casa, mi sono sfogato di una psoriasi. Quindi probabilmente in realtà la paura ce l'avevo, solo che l'avevo talmente repressa che una volta che ho superato l'esame mi sono venute fuori tutte queste macchie e sono dovuto andare a pronto soccorso. A Federico si è coperto di macchie, gli hanno fatto una flebo, superata la maturità, quindi però l'ha cancellata dai suoi sogni perché era prevalente l'incubo di non passare l'esamino di terza media. Francesco. Buongiorno. Lei? Niente, io sono storico perché ho 66 anni, la mia maturità è del 67, due anni prima andavo di forma Misasi. Risultato, 3 scritti, incluso più disegno. Sì. E 8 materie orali in 2 sessioni scientifiche, e ero al liceo scientifico, e letteraria. Cosa è capitato? Che all'epoca non avevamo il soccorrevole aiuto della legge che ci diceva che potevamo fare solo 2 scritti e certo, quali. Venne dopo, sì. Tutti. E dovetti fare delle scelte. Cioè, io fui costretto nei ripassi a omettere inglese e scienze, e lì il problema qual era all'epoca? Che se non studiavi tutto l'anno eri fregato. Non bastava diciamo la boffata dell'ultimo mese, ecco. Eh no. E quindi com'è andata a finire? È andata a finire che avevamo dei professori splendidi, ci hanno anche preparato, sì, con delle dispense eccetera. È andata a finire che sono stato promosso a luglio, ma io poi ho avuto ricorrente l'incubo di dover imparare inglese e scienze, che sono due materie nelle quali era la cattiva coscienza di quella omissione fraudolenta che ritorna su e affiora e dice: ah, non hai studiato scienze d'inglese. Poi due materie che nella vita servono molto più di tante altre. Ingrid, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. La mia esperienza, diciamo, fatta in merito all'esame di maturità e al sogno ricorrente di doverlo riaffrontare, di trovarmi in preda al panico, è stata superata qualche anno fa quando sono stata contattata dal provveditorato agli studi per fare il commissario d'esame di lingua inglese. E le è passato l'incubo di lei fanciulla? Mi è passato completamente l'incubo, perché comunque ho vissuto dall'altra parte, dal backstage, la realtà dell'esame di maturità, ma al tempo stesso ho avuto modo di verificare quanto i ragazzi siano in panico nel momento in cui sostengono. Quindi lei è come un setting terapeutico, ha rivissuto il trauma e quindi naturalmente lo ha superato, infliggendone però di nuovi e più crudeli ai suoi allievi. Brava, è sempre come dire, come quando si vede una suora per strada bisogna toccare un altro, e quando uno c'ha un trauma deve affibbiarla a qualcun altro, se no non se ne libera. Raffaele. Sì, buongiorno Nicoletti. A me è arrivata davvero una circolare, è arrivata una mail della segreteria didattica in cui mi si diceva che per laurearmi in fisioterapia, nonostante avessi già preparato la tesi e fatto l'esame di Stato che da noi è interno, mi mancava un esame, ma neanche un esame di quelli, diciamo, standard. Un'ADE, un'attività didattica elettiva, che sono gli esamucci da pochissimi crediti, che uno si sceglie addirittura. Mi avevano massaggio detto che... inguinale, questi esamini che uno dà così semplicemente. Sì, dove puoi trovare una grandissima passione come un massaggio particolare sul rachide, oppure ti riduci a fare... Quindi lei le mancava il rachide, cosa ha fatto? Quindi l'incubo ha una base storica, accade veramente? Sì, sì, decisamente. E cosa ha fatto? Ha cercato un rachide velocemente per esercitarsi oppure... No, ho trovato un professore dotato di molta autorevolezza, se non addirittura autorità, che ha parlato con la tutor, che mi aveva detto che era tutto a posto e che invece era fallito. Per fortuna c'è stato il professore superdotato che l'ha salvata dalla carenza di rachide che avrebbe impedito la sua laurea. Benissimo, abbia dato un contributo alla scienza e anche alla coscienza. A domani.